mica facile, mi avevi promesso tu. Ma in fondo cosa c'è di semplice? Ci sono i lupi nelle favole. Ed ecco settembre, le giornate piene che si accorciano e tu non dici niente, pure avevi promesso finestre, giorni di sole, che rifacevi anche il letto per poi rifarci l'amore. E adesso, adesso siamo una stella che brucia, una luce sbiadita, guarda che cielo stanotte. Siamo sogni a pezzi, siamo passi incerti, siamo foto mosse. Ci siamo fatti del bene, poi male, poi bene. Mi puoi perdonare perché non torniamo adesso due stupidi e ritorniamo. Stare insieme non è mica facile, io che discuto con te, che sei il veleno e sei l'antidoto, ma poi sorridi ed io precipito. Passa gennaio, le giornate piano che si allungano e noi compriamo insieme nuovi occhiali da sole senza lasciarci le mani, facciamo prove di volo. Sulla terra come tutto quello che verrà. Siamo una stella che brucia, una barca di vita. Guarda che...